vi dico, signor, che Cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello. Ma come se a quest'ora esser giunto a Siviglia egli dovria? Scusa, oggi Siviglia è a casa mia, là vestissi da donna e là lasciate agli altri abiti suoi. Perfidi! Andiamo, mi vedrete voi. Leggeva in fronte il dispetto e la rabbia, piano che meglio, ora lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, fissiamo un luogo, scrivi, che scrivo, ma signore, che scrivi, dico, e tutti io prendo su me stessa. Canzonetta sull'aria. Chiedo un perdono e loro notizia è venuta ier sera. Onoriamo la bella forestiera. Venite qui, datemi vostri fiori. Come arrossì, Susanna, e non ti pare che somiglia ad alcuno al naturale? Ehi, pospettaccio, e questi l'ufficiale? Stelle, malandrino. Ebben, madama. Io sono, signor mio, agitata e compresa al par di voi. Ma stamane... Stamane, per l'odierna festa, voleva travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso. E perché non partiste? Signor! Saprò punire la sua disubbidienza! Eccellenza, eccellenza, voi mi dite sì spesso, qual volta m'abbracciate e mi baciate, barbarina se mami ti darò quel che bravi. Io dissi questo? Voi! Guardatemi padrone in sposo cherubino e amerò come amo il mio gattino. Ebbene, ora tocca a voi. Brava figliola, hai buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uomo, qual deone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, si trattenete tutte queste ragazze. Addio feste, addio danza. E che vorresti ballar col piè stravolto? Non mi duol più molto. Andiamo, belle fanciulle. Come si caverà dall'imbarazzo? Lasciate fare a lui. Per buona sorte i vasi erano di Creta. Senza fallo, andiamo dunque. Andiamo! E intanto a cavallo di galoppo a Siviglia andava il fancio. Di galoppo o di passo, buon viaggio! Venite, o bene giovane! E a te la sua patente era in tasca rimasta! Certamente! Che razza di domande! Io non li far più motti e non ti intende! Ed ecco chi pretende che sia bugiardo il mio signor nipote! Che Robin! Or ci sei! Che diavi canta? Non canta, no! Ma dice che gli saltò stamane in sui garofani. E lo dice? Sarà, se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso? Perché lo? Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio. Eccolo. Ti mirai. Lo so, ti piaccio. Contessa. Or non parliamo. Ecco qui le due nozze, riceverle dobbiamo. Al fin si tratta d'una vasta potenza. Seggiamo. Seggiamo. Thank you. la solita usanza, le donne fica gli aghi in ogni luogo. Ah, ah, capisco il gioco. Un biglietto amoroso che di te è passato qualche galante, e ti era suggellato da la spilla. Narcissa la cerca, oh, che stordito! Andati, amici, che sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cielo, e gran ballo. E ognuno impari come io tratto color che a me son cari. Cos'hai? L'ho perduta, cugino. Cosa? Cosa? La spinta che a me diede il padrone per regalo a Susanna. A Susanna la spilla. E così, tenerella, il mestiero già sai di far tutto sì ben cruel che tu fai. Osserva e mi colpirà. E non vedi che io scherzo? Osserva. Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo a un bigliettino. Vedi se io sono istrutto. E perché chiedi a me quando sai tutto? Avea gusto tu dir come il padrone ti die la commissione. Che miracoli! E mi fanciulla reca questa spilla alla bella Susanna. Vedi, questo è il sigillo dei pini. Dei pini! È vero che mi soggiunse. Guarda che al comune vino Oh, sicuramente! Oh, niente, niente! Addio, mio bel cugino, vada Susanna, e poi, che rovino! Madre! Figlio! Son morto! Calma, mio figlio mio! Son morto, dico! Stessa che poc'anzi ei raccolse. Evi, ma questo è il più timor giù dritto di stare in guardia e vivere in sospetto. Ma non sai se ne fi. Alerta dunque, il luogo del congresso su dove è stabilito. Dove vai, figlio mio? A vendicar tutti i mariti. Addio! Portata alla difesa del suo povero sesso. ti farà? Son quelli che invitasti a venire. Che brutto ceffo, sembra un cospiratore. Che diamen sono in questi infausti parati? Lo vedrete tra poco. In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa onesta e del feudal signor. Buona, buona, capisco come gli è. Accordati si son senza di me. Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. Un fischio mio, correte tutti quanti. Ai diavoli nel corpo! Ma cosa Anna? Nulla. Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli dia un appuntamento che a Figaro non piace. E che dunque dovria soffrirlo in pace? Quel che soffrono tanti, e il soffrir non potrebbe. E poi, sentite, che guadagno può fare nel mondo amico l'accusarla coi grandi. Fu pericola mia, dal 90% e han vinto ancora. In quegli anni in cui val poco la malattia ragion, ebbi anch'io lo stesso fuoco. Fui quel pazzo cor non son, fui quel pazzo cor non son, che col tempo e poi perì, donna fredda capito, e capriccio e l'imbottito, dalla testa mi cavò, dalla testa mi cavò, presso un piccolo avventuro. Se con lei mi trasso un giorno, mi togliendo giù dal muro, nel pacifico soggiorno, una pelle di somaro, di somaro, di somaro, prendi di sé, o figlio caro, o figlio caro, poi di spalle mi lascio, poi di spalle mi lascio. See? risposto, ora dovrebbe esser vicino. Io sento gente, ed essa non è alcun. Buia è la notte, ed io comincio mai a fare il scivolito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, godeva leggendo, e nel vederlo io rideva di me senza saperlo. Oh, Susanna, Susanna, quanta pena mi costi con quell'ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria? Che fidarsi a donna, e ogni or follia. Aprì tu poco gli occhi, uomini cauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, guardate cosa son, guardate, guardate cosa son. Queste chiamate le tali ingannati sensi, a cui tributa i censi, la debole ragion, la debole ragion, la debole ragion. Son streghe che cantano per farci penar, sirene che cantano per farci affogar, civette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per trovarci lume, son rose spinose, son volti pezzose, son donne spendine, colombi, maldine, maestre, migali, amiche, da fani che fingono, ammettono l'amore, non sento, non sento pietà, non sento pietà, oh no, no, no, il resto lo dico, già ognuno lo sa. Aprite un po' gli occhi, uomini cauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che cantano, e il resto lo dico, sirene che cantano, e il resto lo dico, civette che allettano, e il resto lo dico, comete che brillano, e il resto lo dico, son rose spinose, son volpi pezzose, son nonne spendiglie, colombe maligne, maiese migliani, figli da fare che figano, meno l'amore, lo sedo, lo sedo, pietà, lo sedo, pietà, oh no, no, no. Il resto lo dico, a ognuno, già ognuno lo sa. Il resto lo dico, a ognuno, già ognuno lo sa. Già ognuno lo sa, già ognuno lo sa, già ognuno lo sa. Signora, ella mi disse che Figaro verravi, anzi è venuto, abbassa un po' la voce, dunque un ci ascolta e l'altro di venire a cercarvi. Cominciò, io voglio qui celarvi. Madama, voi tremate, avreste freddo, parvi umida la notte, io mi ritiro. Eccoci della crisi al gran distante. Io sotto queste piante, se madama mi permette, resto a prendere il fresco una mezzo. Il fresco, il fresco. Restaci buon'ora, il birbo divertiamoci anche noi, diamogli la merce dei dubbi suoi. Giunsi ai fini il momento che io dovrò senza affanno in braccio a lì perfida, e in quella forma mi commentia, un sozio veglio dormo. Thank you. mia bella Venere, andiamoci a celare. Ma arriti, signoria mia bella Venere, andiamoci a celare. E buio, signor mio. È quello che voglio. Sai quella per leggere, io non desio d'entrar. La perdita la seguita e fa quel cominciare. Passa, gente! E Figaro, ben qua! Andate, andate, io poi verrò. Io con nobile voce che adoro e che Stop, John!